chiama. Liriche dense di immagini, umorismo e grande energia. Rovinano la musica ma rimane qualche melodia. Benvenuto fratello nel mondo dell'hip hop. Ascolta bene il prodotto di Fox. Chiaro, l'hip hop è una musica che ci mostra i dolori. L'hip hop è una musica che ci illustra gli orrori della realtà che ci avvolge tutti i giorni, di come è fatto il mondo e dei suoi contorni. Ho cresciuto nella mia vita dal crossover all'hip hop. Ho scritto un sacco di canzoni ma non mi bastano. Nella mia città mi chiamano Frog e con due rime ti distruggo e ti metto KO. Hip hop crossover, la garanzia che cerchi. Freestyle, basket paint, rime versetti. Io vivo comodo, vivo largo, voi siete come gli insetti. Io metto le rime a posto, tu non capisci dove le metti. Adesso dalle rime I passiamo alle rime O. Al 310 pagine a me non mi basta, no. Parole, parole, riescono dal cuore. Parole, parole, sono la mia passione. Parole, parole, di tutta la nazione. Parole, parole in questa stupida canzone. Parole, parole, riescono dal cuore. Parole, parole, sono la mia passione. Parole, parole, di tutta la nazione. Parole, parole in questa stupida canzone. E chiaro, caspita, le rime le butto tutte giù come voglio. Caspita, ste rime mi danno un po' di orgoglio. Vengono giù strane, morbide come un serpente. Adesso passiamo le rime e questa volta è per sempre. Scrivo e butto giù tutto quello che voglio. Le mie rime battono forte come lo zoppo di un cavallo. Tieni stretta la tua arma perché forse ti serve. Tieni a posto le tue mani e non raccontare balle. Sosteniamo l'amicizia, combattiamo l'ingiustizia. Col denaro e con l'amicizia, dalle in culo alla giustizia. È inutile che ti affanni, tanto ho vinto la perizia. È inutile che ti dimeni questa volta la giustizia. Trovato contro l'inganno e contro l'arroganza. I tuoi tentativi hanno perso ormai la speranza. Parole, parole, riescono dal cuore. Parole, parole, sono la mia passione. Parole, parole, di tutta la nazione. Parole, parole in questa stupida canzone. Parole, parole, riescono dal cuore. Parole, parole, sono la mia passione. Parole, parole, di tutta la nazione. Parole, parole in questa stupida canzone. Sono contento, contento di vivere. Sono contento, contento di scrivere quanto ho urlato. Non te lo immagini quanto ho sofferto per te stupidaggini. La mente sgombra, il sangue scorre lento. Ascolto in silenzio il vento, ma nella mia mente ritorna un evento che ripulirmi fa. Destino premia i buoni, gli altri li lascia stare. Un fantasma dal passato improvvisamente mi assale. La rabbia cresce, la rabbia sale. La bocca asciutta, la gola di sale. Il mondo è fatto a scale, c'è chi scende, c'è chi sale. La voglia di muoversi, la voglia di ballare. La voglia di cantare, la voglia di urlare. Yo, come on, come on, come on. Sogno l'amore, paura, rancore. Ricorda che la vita non è solo giocare. A volte il sogno non è più realtà. Anzi diventa in realtà la solita solfa, il solito evento. Ascolto in silenzio il vento, ma nella mia mente ritorna un evento che ribollirmi fa. Ciao, ciao, parole, parole, riescono dal cuore. Parole, parole, sono la mia passione. Parole, parole, di tutta la nazione. Parole, parole in questa stupida canzone. Parole, parole, riescono dal cuore. Parole, parole, sono la mia passione. Parole, parole, di tutta la nazione. Parole, parole in questa stupida canzone. Sono parole d'amore, parole, parole, parole cattive, parole passate, parole di terra, di vento, di neve. Parola lunga è, parola breve. Parole di ghiaccio, di acciaio come lame. Parole vicine, parole lontane. Parole che escono soltanto dal cuore. Parole, parole, soltanto parole.